ogni giorno a quest'ora qua c'è questo qui. Rimani lì, non farmi così. Non riesco a tenermi tutto questo per me. Devo suonarvelo. Arrivo appena termina il vostro mattino. Buongiorno, sono Gigi D'Agostino. Su M2O, ogni pomeriggio alle 2 o alle 2 del pomeriggio, si cammina volendo. Facciamo che balliamo. Facciamo che balliamo. Facciamo che balliamo. Facciamo che balliamo. Facciamo che balliamo. Facciamo che balliamo. Questo programma, che non è un programma, ma lo è, perché non è un programma, ma non so come chiamarlo e quindi lo chiamo programma. Ma dicevo, questo programma che state ascoltando, Il Cammino, quello mio, cerca di raccontarvi le diverse tonalità che colorano il giorno e che oscurano la notte. Su M2O, ogni pomeriggio alle 2 o alle 2 del pomeriggio, si cammina volendo. Numero 10.

su M2O si muove un cammino. Buongiorno a tutti, sono Gigi D'Agostino. Incontri danzanti di questa settimana, di questo fine settimana. Venerdì e sabato suonerò in Austria. Dankeschön, Bitteschön e altre storie. Domenica pomeriggio, invece, fresco fresco, suonerò a Rimini, in fiera. Alle 15 sarò ospite nel programma del DJ Provenzano. Live nello stand della Citroen. Informazioni varie sul mio sito www.gigidagostino.com. Entrate nel forum e poi lì c'è tutto. Eh no, perché è lunga da spiegare. Let's go to Jazeera. منها الشر دنيا تسكنها الليل Attenzione, il 20 aprile, in ogni dove, troverete la mia compilation. Lento, violento, è altra storia. Quando dico altre storie, intendo dire quello che voglio dire. Intendo dire quello che voglio dire, ma che non riesco a dire. Cioè, altre storie è tutto quello che desidero raccontare musicalmente. Ma a prescindere dal fatto che sia lento o violento, o veloce e dolce dolce. Vabbè, io mi sono capito, asciutto e pulito. Passo, cazzo.

Dolcemente a chi mi piace. costino. Gigi tap tap Gigi tap tap tap Gigi tap Gigi costino Gigi tap costino Gigi tap tap Gigi tap tap tap Gigi tap Gigi costino Gigi tap costino. Se vuoi emozionarti devi sintonizzarti M2O musica allo stato puro. Così. Vai di cassa. Noccioline, ma boom a mano? Dai a poco sta cazza. Thank you. Gigi. Era chiaro così, si è capito il concetto. Perché mi piace essere chiaro. Sole ma non c'è.